Fineccaggio dell'antenna. Daniele mi ha passato l'arringo e gli sto dando una pulita che domani mattina la voglio piazzare. Non hai voce fritta rispetto a magari anche la 190 a fianco magari. No. Di modo che così puoi usare una bella cosa per la mia terra. Troppa grazia già. Troppa grazia, chissà. non viene bene. Non è fattibile. Già l'avrei voluto fare anch'io, però non a livello pratico non si può. Prova a lavorare così. Mi registra il tuo segnale. Beh, magari se riesce a abbassare la sensibilità, se riesci a abbassare un po' il tuo RF gain, così vedi un attimino come ti arrivo. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ok? No, non è un... Sto mettendo gli occhiali, prova. Pure io faccio le biciclette. Allora, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Referto segnale, doppio room. Così c'è 9, 15. 9, 15. Aggiudicato. A metà RF gain. Bene, veda, 9.15 aggiudicato. Ah, vero? Mi Alessio, mi? Chi è? Non lo so, chi è che ha parlato? Io. Boh, mi è sembrata la voce di Alessio. Andrei, ove? Ciao, Daniele. Buonasera, ciao, Gianni al quadrato. Al quadrato e al tappettino. Ciao, Daniele. C'è Roberto quadrato e Gianni al quadrato adesso. Senti un altro Gianni, passiamo a Gianni al cubo. Aspetta, avete parlato in due. No, non passo io nell'altro. Ho detto che se arriva un altro Gianni facciamo Gianni al cubo. Non passo io nell'altro. Vai. Doppio room, dimmi com'è questa modulazione. Ora la cipolla. Aspetta. E adesso com'è? Prova. Guarda, ora. Va meglio qui. Più cupa è. E adesso già. Adesso va bene. Aspetta. Guarda, adesso ora la cipolla. No, tutto uguale, sto facendo una prova d'ingresso del VAT dell'aereo. Cosa? Sì, vantato. Non ho capito già. Capisci a me, vantato, pieno di vantato. Ah, sì, ho capito, attaccato, dovevo fare una cosa del genere. Sì, sto facendo una prova, a vedere fin quanto ottiene l'ingresso. E qualche apparato si usa? Sempre lui, 48, con l'elicottero. Ma dovrebbe essere da 5-10, che cosa si usa? Sempre lui, 747, ma ne sta volando 8 in ingresso, da una cosa del genere. Perché adesso sono 50. Guarda, ora. Ma prova a modulare. Guarda un po', 1, 2, 3, 4 e 5, la peppina fa il caffè. E 9.25, sì. E io guarda che arrivo. Ora 1, 2, 3. Guarda che si sentono i 9, dai, perché questo smitter lo devo regolare già, se no mi arrivi a 8. Via. 7, 8 modulati sono, dai. Okay. Non è un segnale ammissibile. Troppo basso. Sì, no. Devo attaccare l'altro 48 per sapere il segnale, quello è tutto originale, diciamo. Va bene. Ebbene, il profè, questa antenna, noi se l'abbiamo. Ascolta, gli sto dando una pulita. Allora, mi serve sapere una cosa. Allora, alla base c'è un tubo col bocchettone in plastica, giusto? praticamente, e poi va insertato il, lo stilo, quello più grosso, ok? Praticamente il tubo, lo stilo grosso va infilato nel tubo più corto e praticamente viene fermato da quel rifletto che c'è giù, giusto? Cappa, infatti il terzo grido ci vorrebbe una vite per non sfilarci, capito? Sì, ma voglio dire, lo stilo deve toccare il rivetto, perché non riesco a capire che funzione abbia il rivestimento in plastica. Non è che deve essere isolato, no? No, tu appoggialo, appoggialo tutto. Allora, faglielo appoggiare. No. E quello serve per una sorta di isolatore, dai, più una guaina. Ho capito, ma cioè, se io serve da isolatore, mi stavo, la domanda che mi stavo facendo è se serve come isolatore, praticamente lo stilo una volta che entra dentro quella, quel tubo di plastica poi va a toccare con l'alluminio che c'è sotto. Volevo sapere se era tutto normale, perché poi una volta che tu metti il cappettino sul radiale rotondo, non voglio che vada in corto. No, no, vai tranquillo, che l'ho usata così e andava bene. KK, ho rimesso il radiale, ho rimesso la bobina dentro nel suo posto originale, adesso gli ho dato la pulina, gli ho dato una pulita veloce col Chantecler, così l'ho rimessa com'era, adesso piano piano la sto finendo di pulirla e niente, dato che ci sono gli risaldo bene il caffetto con la pinzetta. Cava, cava, la stavi dicendo, doppio room. No, no, no, no. Eh beh, bisogna fargli accoppiare, ya. Io. Ma secondo me la dovrebbe finire con la manacciaia e con cerricina, per non citarla a me. La manacciaia, cerricina, la manacciaia e la luce di quelli. L'avevo già fatto io i giorni scorsi, già. Poi come l'ho messo in garage, che ha fatto un lavoro, si è tutta sporcata. Non è che farà molto bene, è un trasattore ma non va bene per la pelle. Cava, cava. Sì, vabbè, appena appena, giusto una passatina. Cava, cava. Boccia. Adesso prendiamo tutto sparato. Già. Aspetta, si sta zuffando l'antenna già. Ma purtroppo, è contenta. 4 e qualcosa, 5 metri mi sa che ci arriva. Adesso qua, adesso provo a stenderla, se ci sta, ma non credo. E così la misuro. Prova a stenderla già e prendi la misura, che io non me lo ricordo quanto era. E adesso vado qua in corridoio a casa, insomma, la stiro e la misuro, dai, poi te lo faccio sapere. Muori anche la morbidente. Tira buchi lavatrice. Tira l'amida, metti. L'amido. Dai, datemi 5 minuti, poi rientro. Fai, fai. Ma non è che la puoi via cavare. Sono andato a mangiare i sì. E dove sei andato? A cocco, a cocco. Sì? E beh, come si mangia? Benissimo, io mangio bene. Io sono andato parecchie volte, cioè, perché mio figlio è fissato, è a compleanno, mi ha tirato a mangiare, io andiamo, papà, io andiamo a mangiare. Cava, cava, no, non c'ho coraggio, io no, già. Guarda, Daniel, i ciappano, i cinesi no, ma i giapponesi sono pulitissimi, fanno le cose da fare, perché fanno ce l'hanno trasparente, ci pensano quello che fanno, perché il terreno è trasparente. In più fanno pesce e riso, non fanno altro, gamberi fritti, panati fritti, queste cose. Il pesce usa il salmone, così sempre, poi il tonno, sono pesci abbastanza fritti, non c'è altro bambini, capito? Cava, cava. Non mi ispirano già, sa perché Io vabbè, il pesce ne mangio poco e niente. Anche io non ne mangio, ma io lì lo mangio perché muoio. Le armi le arrotolate con le armi. Mamma mia! Sono buone, sono buone. Vai, è già meglio un pezzo di carne arrosso. Cava, cava! Tu perfetta! E oggi non te l'ho ascoltato la propagazione già? No, stavolta. K, verso mezzogiorno si è aperta, andando aumentando fino alle 3:10. No, ci avevo gente a casa, ma potevo fare. Poi la macchina non ne accendo mai la velocità, non ne accendo. Di solito lo accendo con la sera e basta, la macchina non ne accendo. No, la mia era accesa la stamattina. Lasciata al 45, visto che è una bella giornata, adesso vediamo cosa si sente. Da nord, da centro e sud sentiva. Ma sempre camionisti. Camionisti anche stazioni fisse. Però di più dal centro a salire verso il nord. Era molto molto favorevole a noi. Stavo parlando con uno di Cuneo, quella zona lì. Sì, io di ex che facevo prima ho parlato con l'Inghilterra, con la Spagna, Francia, Olanda, Svizzera, che possibile fare. Cava, cava, però era molto ballerina, perché poi aumentava, poi veniva di botto, poi riiniziava, non era stabile. Lo so, quando non è stabile è una rotta di scatola, perché se fa un discorso non puoi terminare. Cappa, però per il centro-sud questo, centro-nord invece sembravano qua dietro l'angolo. Vabbè, aspetta un secondo che avrei conversato. Cappa, lo profe. Gianni sei vende a Borussia. Ehi, a te stavo cercando. Un messaggio hai mandato? No, messaggio ti ho mandato. Adesso no? No. Ah no, perché ho avuto un messaggio, non c'ho il telefono appresso, ho sentito solamente il rumore, pensavo fossi tu. Vabbè, Antu, sto bene. Sto bene, niente in ordine, caro. Cava, ma con che antenna stai andando adesso, alla grande? Raga, tipo con l'antennino dentro a casa. E chi ti sente? Oh, mi prendono per scemo. Vedete, sto facendo una cosa. Cava. Proprio rutto, ci sei? Eccomi, eccomi, ci sono, ci sono. Cappa, cappa, anda Benevena. Dai, chiami a 110 minuti, dai, sentiamo dopo già. Ok, se mi trovi sì, perché adesso vado a fare la spesa. Se non entra nessuno, possiamo farlo domani mattina, adesso vediamo. Se trovi gente mi trattengo, se no me la squadra. Cava, cava, c'è Gianni Luperfetta che si sta zuffando con l'antenna. Cappa, cappa, meno. Va bene, vedi tu cosa fare, se ti cacare in via, vai, ciao, scendiamo. Devo fare una commissione veloce già. Capito, 20 minuti, perché poi devo andare a una riunione alle 8. Eccomi. Ah, ega, allora, l'antenna tutta estesa dall'innesto in plastica sino alla fine del radiale più sottile, misura 4,80 m, considerato che ci sono anche i 5 cm che infilano in ogni stilo, femori e gonti sono 1, 2, 3, dai, siamo quasi intorno ai 5 metri. Già, ma dalla base, diciamo, alla punta, quanto è lunga? Allora, dall'anello in plastica io ho misurato, il tubo di sotto non l'ho considerato, capito? Quindi dall'anello in plastica sino alla punta del radiale sono 4,80 m, considerato tutti i centimetri che vanno innestati nei radiali, cioè tubo dentro tubo, secondo me siamo intorno ai 5 metri, quasi 5 metri. Ma è giusta, 4,80 ti deve risultare, sì, era quella la misura giusta. perché l'ho presa anche dall'anello nero la misura, non dalla base. Bene meda. Sì, l'ho estesa e l'ho bloccato un attimino le viti e l'ho misurata. Sì, 4,80. Vai a piazzarla al volo, aiù. No, non a Giugana, va. Domani mattina... Cazzo, estesa è ben lunga, lunga, ma non più di tanto, dai. Va bene, dai, adesso è pulita, ho dato una bella pulita anche alle fascette. E niente, domani mattina la piazziamo, dai, la proviamo. Andava, dai, io mi devo assentare, ci sentiamo dopo se coincide, dai già. Bene, Meda, ok, grazie mille, dai, a più tardi. K, lo più russo, se ci sei, a dopo, se no alle prossime, dai. E adesso vediamo se la gente, se no come esce. Avanti, numero 3. Eia, niente, adesso facciamo questo esperimento, vediamo un po', sicuramente guadagnerò qualcosa, visto che l'antenna è molto, molto più lunga, vabbè, non è un fattore, non è questione di lunghezza, però ha la sua importanza, vediamo se riusciamo ad accordarla e a tararla bene, sono sicuro che guadagnerò qualcosa. Quello sì, guadagni il doppio di quella che c'hai adesso. Bene. E così Gianni, una volta piazzata, mi controlla e mi dà il referto. Andava, dai, io vi lascio che scappo, sentiamo dopo se coincide alle prossime, dai. Niente, ciao. Eia, va bene, a dopo. Quindi siamo 9:15. Ok, dai. Bene, Meda, così me lo segno. Attenuato da Tino, arrivo 5:30-6 con la boomerang. Adesso domani eventualmente se tutto va bene proviamo anche con lui, vediamo un po' cosa succede. Qua 6:08 spaccate già, dai che chiudo, ciao. K, avanti già. Ehi, come mi prendi il rabbio? Sono dalle 5 stamattina, sono andato a fare il modo con 7:30, sono restato per andare alle 8:10. Siamo andati a prepararmi, portare giù il cane, siamo fatte le 7:30, abbiamo fatto un quarto e lui ha detto carta a me, chiama la roba, ha detto sono io alle 8:10, che come si chiama? Ha detto no, ma lei non è un tipo, lì non c'è, gira il fuori, dice guardi ti vedo, ma si è scherzata. Se io come altro appuntamento me lo segnato il calendario, come facciamo di sbagliato? Non so, ma gli appuntamenti non li prendo io. C'è il collega che mi prende, se l'ha prestato lui. E niente, finisce il giorno, guarda. Cazzarola, oh. Vabbè, ormai la gente è fusa, non comprende più nulla, già. No, ma non è possibile che abbia sbagliato io, sai perché? Lei ha fatto dicendo con il telefono l'orario e il giorno, e io ho segnato nel calendario, quindi non me l'ha ripetuto due volte, quindi io non penso di essere così sordo da non capire, da non sentire le cose. Sicuramente avranno fatto confusione mentre si sono passati le informazioni. Un crocco, amico mio. Io ci mi sono mangiato un bello piatto di tiramisù. Ma com'è il tiramisù? Sì, vabbè, una cosa che sapevo fare. Poi io vengo il giorno dopo. Certo, se tu sei amico a mangiare i dolci, no, ma... No, io ho preparato bene un bel piatto nel potatino che io ci ricordo. A me piace, però dopo che ce l'ha preso, dopo che sono stati le buone patate, dopo che si è raffreddata, mi piace. Con un pizzico di filippini, te lo dico io, della morte sua. Sì, dopo che si è raffreddata, che prende bene il sapore, mi piace. Quelle patate di calciuto mi piacciono, mi fanno le patate. effetto strano. Con il calcio più di piano. Vabbè, a questo punto mi dovrei farti ricordare di... Sono le tue clienti, non posso dare giù. Già, con questa c'è dove? Fuggi, Perché era già stato? Perché ogni tanto è un po' compresa come modulazione. L'aveva fatto un po' modulazione. Ma già potrebbe attaccare. E oggi? Allora, Daniele mi ha portato la Ringo, l'antenna a casa, l'ho misurata, cioè l'ho pulita tutte cose e domani mattina la piazzo e poi vediamo come migliora il segnale. Mi ha detto che sono 5, giusto? Sì, 4,5, 4,5, 5. Cazzo, sempre andando a fare Andy. No, 4,5, 5, ce n'è 5, dai. Amico mio, già lo so quello. E quando rido quando salgo? Quando ridi Santiago Longa. Bene mela. Dai, sono curioso di vedere quanto mi fa guadagnare. Vabbè, la rottura di balle sarà tararla, trovare l'accordatura giusta. Capa, ma insomma non è così semplice. Stavo leggendo un po' di cose, bisogna starci un po' appresso, dai. Ma dimmi già, stai parlando con la già. Chi è che sta la prossima partita? Ma di tre. Sì, avete parlato di due. E mi passava. Adesso va meglio. Cazzo. Cioè, mi sta facendo da un po' poco, ecco, perché appena di toccare gli slider poi si rovina. Lo so, questa qui è la mia prerogativa di motivazione, io sono sempre uscito con le e così riuscirò ad essere secco. A chi dà fastidio si tappa la reggia. Allora, sei tornato come prima, modulazione di città 5, c'è qualche passo contatto io di fronte, allora. Perché prima stavo facendo bene e poi è arrivato l'altro posto che va a finire. Marco, tanto guarda chi come si vede, allora tutti bene la gente. Ascolti, gli altri mi sentono bene, poi sarai tu pure al problema. Non ne ho io problemi, ma anche adesso non mi sento più, così è complesso, ma è inutile. Poi la gente non lo so, non te lo vuole dire, ma è così. Oh, ciao Franco, così è fatto. Io mi sono comprato un macchino come si muove, se deve comprare, bello serio, come si compra una moto, puoi dire qualcosa. Ma lascia perdere questa fretta, io la sto la prendo. Sta uscendo complesso, ma è la sua solita modulazione. Sempre a prendere la stessa in ragno, non la stessa microfono, non è che non è solo che ha la modulazione, io la conto bene. Vabbè, prima è l'ultima scala. Vabbè, non me la prego niente, però. Comunque ciao a tutti, buonasera. Ciao Franco, hai sentito? Ciao Franco, buonasera. Io? Hai sentito come sei inizio? Cosa hai fatto? Hai staccato la bocca al microfono, va? A me stai dicendo? Sì, e a lui? Perché non sei inizio adesso e non devi attaccare? Ti sei staccato al microfono? Ma è negativo, mi sono proprio vicino. Mi sono avvicinato di più perché stavo abbassando il volume che era troppo alto. Mi sono avvicinato a dei video adesso. Vabbè, niente, lascia stare questo iniziale. Lascia stare. Non profe. Ehi, stavo salutando a Franco, buonasera. Ciao Gianni, grazie a te. Non mi piace la radio, non mi piace. E tu, come fai oggi? A dire che quella lì la radio, se lui usa sempre quella. Ho capito, ma non puoi, io l'ho ascoltato male, stiamo strappando. Perché devi dire di no? È così? O vabbè, ascolto, avete... Vabbè, ascolto, faccio bene, non c'è problema. Aspetta, un problema, quando mi ascolti, sincero. Ma è normale, ho che ti ascolta bene, siete attaccati. A cosa avendo a Gisuano. Che attaccato sì, più dovrebbe strappare, se è quello lì. Gianni, come mi ascolti? Non risponde, dai, perché non vuole essere di parte, perché è amico di lì. Questo è dopo problemi. A parte. Sì. No, negativo. Sono con 6 watt. su Ok, capa, ma hai tirato su microfono o roba o altre cose, no? No, questa non è la solita radio. Questo è il collo. Infatti si sente che è un'altra modulazione. Questo era fermo da qualche annetto, era fermo. Adesso l'ho messo di nuovo in funzione, tanto per farlo camminare. Quindi roba vecchia. Roba vecchia non si usa mai. Benemeda, benemeda. Ma Gianni ancora c'è? Ma Gianni mi ha chiamato, meno che non è al telefono. K. Anda bene. Eugi? Stai dando il bando per prendere il baracchino, così è. Sì, a fare di valutare Uranus, a fare di valutare Uranus. Ah, vediamo che ci stai vendendo. Ah, vendendo, ho fatto un cambio. Sto portando la fila, uscita sto portando la fila. Non ti convieni. Ma se lo conosco, se tu riesci continua, bellissimo. Sì, capo, già lo conosco, conosco bene, è bello come una radio. E sarà quella che è bellissima. Tu sì, senza di là, ti faccio qua. E va bene, non mi trova una radio stupefacente. La radio? Una radio che sia allo stesso livello. Una radio, cosa ti piace? Sarà impegnato. Adesso c'è la campagna, sarà impegnato in campagna. No, me la continuo, non è per strada, adesso se massimo 7-10, me la molla è per strada, 7-10. Cos'è questa cosa, io sono impegnato? Purtroppo è così. E dai, quando ci sono qui, ci sono, qui. Sì, la pensione è tutta al capito di quando stavo lavorando. Adesso me lo vedo, ma per quello che c'è qua, che sono prestato il 2009. Vabbè, lì stai usando adesso il Galax. Sì, sto usando il Galax. Non è bello. Non va bene lì. Altro che il 2009. Ah, non mi tocca il 2009 perché sono innamorato, troppo forte quel Galax. Scusate ragazzi, mi devo spostare un attimo, dai, eventualmente ci sentiamo dopo. Un altro FM 500 S48 500 e 548 S. Ma a me perché già si da pace, mi dà già con me, no? Però ho fatto che poi qua mi piace proprio riprendere, però devo fare quel questo. E comunque il 2009 non l'ho fatto, l'ho comprato un nuovo con la devozione. Ho comprato internet da un negozio Radio Twitter, si chiama. Capo. E beh, 2009, ma è che quello che stai usando adesso è una bella radio. Io l'avrei avuto un Galaxy con la verità, ma neanche... Ma è ok, lo fai cambio con un Galaxy Saturn Echo o... fai cambio. Infatti, oggi non ho recuperato di nessuno, non di parecchio. Ma io darei anche l'idea di apparato con la cantatore per un Galaxy Saturn, tranquillamente. Ehi, qua, a provare chi ce l'ha, andatelo. No, ma che fa tanto, ce l'ha già chi, dopo tu, ma non le dà. Brucia il tuo corpo, come si fa. Metti un film, Saturn, un po'. Trova solo il negozio che si fa il già leggi bene, leggi bene, uno, quello che c'è con 99 euro, mi sa tanto che c'è scritto che è un apparato di tanto tempo, che non è sicuro che gli altri bisogna sapere. Io leggi tutti quelli che scrivono. E se c'è, guardi, c'è anche quello che si valuta usare. No, questo è un altro, c'è scritto benvenuto sia eticamente che esteticamente, quindi non è quello che dice. Ho letto anche questo, poi c'è lo stesso senza neri, è lo stesso e poi dice che non lasciate che non è sicuro, sui beni, perché ho già un anno dei 30 anni, capito? Però questo c'è quello che valuta, che per, cioè, fa la cosa che usa. Praticamente su Amazon questo è, no sui B, su Amazon. E io lo faccio sui B, ma sono gli stessi. No, ma non ci sono diversi apparati qui, anche base, tipo lo Washington della President. Ma sempre il padre di sé? Sì, sempre il padre, sto parlando, per la 27. Scusate, dai, che mi devono mangiare. Ci sentiamo dopo, 17. Ciao, non è così. Ciao, ora, ci sentiamo, ci siamo comunque. Vabbè, vai a mangiare con la carica, avanti lì. Ehi, ciao, ciao. La sentiamo, tocca il buco sotto, ora lasciate il minuto. Ciao. Ehi, come si la metà del gas, la riuscita di tutti i giorni, la ragazzi. Tutti, mi raccomando, tutti. Ciao, ciao. Ciao, fra, ciao. Ma tu io li ricardi, come si la zecca, ma. Va bene, a questo punto posso anch'io che non so affaticare. Ciao, ragazzi, ci vediamo dopo, ciao. Ehi, ciao, ciao, ci sentiamo, va. A non dire. Ehi, a dopo, là, ciao, ciao. Gianni. Avanti, ciao Marco, buonasera. Ehi, siccome io ho messa tolta nel giro di un anno, adesso che ci sto facendo mente locale, l'isolatore è fatto in modo da non fare affondare lo stilo all'interno del tubo della base, assolutamente, non deve proprio affondare. A me dopo solo un anno stavo accedendo l'isolatore e lo stilo ballava, lo sai, praticamente era tenuto solo dalla bobina quasi, il vento, e l'ha fatto il vento, quindi forse l'isolatore ha ceduto, allora, e come fa a reggerci lo stilo, caspita, fa forza solo sulla bobina, mi occhio. Cappa, allora ti spiego, vabbè, più o meno facendo un ragionamento logico ci sono arrivato. Praticamente lo stilo grande si infila all'interno del tubo base dove c'è l'isolante in gomma. Cosa succede? Praticamente lo stilo di base praticamente a un certo punto si ferma perché va a toccare il rivetto. Ho visto che praticamente però c'è la bobina che il supporto della bobina è collegato al tubo base tramite il rivetto e l'altro capo della bobina è collegato allo stilo. Quindi ho pensato, ma se c'è l'isolante in gomma, lo stilo va a appoggiare sulla testa all'interno, la testa che c'è all'interno del tubo, praticamente si crea una sorta di cortocircuito e quindi non avrebbe senso l'isolante. Quindi a questo punto lo stilo grande non deve toccare assolutamente neanche il rivetto, ok? Sì, sì, sì. Base e stilo non si devono toccare. In realtà poi la bobina crea una, adesso non mi ricordo il termine, capacità induttanza, per cui sì, è cortocircuitata per le scariche statiche, però per la radiofrequenza non dà problemi, capito? È cortocircuitata, ma solo per la corrente statica, non per la radiofrequenza. E ripeto, se lo stilo entra, va a finire sul rivetto interno del tubo, probabilmente l'isolatore ha ceduto. È la prima cosa che parte, perché è fatto talmente in economia ristretto la mia dopo un anno ballava, cioè lo stilo ballava nell'isolatore, solo la bobina lo stava tenendo assieme. E infatti con l'antenna, cioè, da Fusaro costa 38-39 euro, però cioè, a mio giudizio è un'antenna temporanea, ma non da lasciare fissa, assolutamente. Diventa pure pericolosa se ne scende. Kappa, dai, adesso chiaramente visto questi approfondimenti, praticamente devo fare in modo che lo stilo grande non abbia nessun contatto e neanche vada appoggiarsi col rifletto, quindi mi devo trovare una soluzione e fare in modo che praticamente lo stilo grande non vada a toccare il rifletto. E niente, quindi o faccio praticamente in modo che lo stilo non arrivi a toccare il rifletto con uno spessore o qualcosa, e niente, mi devo inventare qualcosa. Sì, comunque ragionandoci ho detto non è possibile che questa cosa si deve fare cortocircuito, cioè ci deve essere un contatto, quindi capito, mi è saltato subito all'occhio. Eia. Poi come ti dicevo, stavo dando un'occhiata a Rosme, la taratura è molto soggettiva, io ho usato un tubo di un metro, per esempio c'è uno su quel forum che l'ha tarata a 3,35 m di stilo, cioè alla fine da una mezz'onda cosa diventa? Boh, sì, elettricamente sembra una mezz'onda, però così gli ha accorciato troppo lo stilo il tipo, cioè... Poi io ho tarata sul tubo, poi l'ho messa però sul palo da 6 metri, infatti le stazionarie un po' sono cambiate, non tanto, ma cioè non potevo fare sali e scendi l'antenna, sali e scendi col tubo da 6 metri, ho detto come va, infatti le stazionarie hanno, solo adesso ti spiego in breve, ho già, da quel forum, da quel coso che ti ho linkato, sono sparite parecchie foto e parecchie spiegazioni, sai perché la mia è andata veramente, ma veramente male? Perché a metà del tubo, che era stato isolato non da me, era stato isolato con dell'autovulcanizzante, no? È stato isolato male, è entrata acqua, quindi a metà dello stilo era tutto un misto di ruggine, ossido, c'era tutta una poltiglia, guarda, come quando lasci una caffettiera usata e mai lavata per mesi, si forma tutta quella roba strana, no? Quindi non stava proprio lavorando l'antenna. Invece questa 5 ottavi, l'isolamento l'ho fatto io, con altro vulcanizzante, bello teso, passato più e più volte, e poi ricoperto con altro adesivo. Infatti questa antenna è isolata bene per adesso, finché non c'è dell'isolamento. Invece la Ringo c'era stato un... aspetta, scusa, c'era stato un errore con l'isolamento. D'altronde io a quelle altezze sono... alle altezze sono un po' claustrofobico, non vado d'accordo con le altezze, l'avrei dovuto fare giù e poi issarla, capito? L'isolamento. E comunque ho guardato il segnale tu oggi, allora questo attenuatore del baracchino attenua di parecchio, cioè tu sei, che ne so, 9,15-9,20, ti porta a zero, si muove appena un decimo di millimetro. Quando metterai questa antenna vedremo di quanto salirà il segnale, capito? Quindi attenuato arrivi quasi a zero, vediamo se guadagna qualche dB, ok? Kappa, sì, adesso ti ripeto, mi devo inventare, devo trovare una soluzione per evitare che il tubo di base e lo stilo grande entrino in contatto. Sì, l'ho letto il forum che mi hai linkato e ho letto anche praticamente, adesso non mi ricordo chi l'avesse postato, se Francesco o Fulvio o qualcun altro, che praticamente si è riusciti a trovare un buon compromesso con la lunghezza dell'antenna a 4,30 metri circa. Poi tu hai scritto 4,17, 4,13, anche tu circa, più o meno, comunque la morale della favola è che l'altezza ideale dell'antenna, parlo dallo stilo con tutto lo stilo praticamente esteso sino a 4,30 m circa, senza contare il tubo di base. Questa mi è sembrata praticamente in linea di massima la cordatura, la taratura migliore. Devo farti notare anche che almeno quando la compri nuova, quel cavetto nero, no, che sarebbe il polo centrale che va dal bocchettone LTL alla bobina, diciamo che è una curvatura quasi forzata verso sinistra, no? Verso sinistra, quindi se io volessi tenere lo stilo più lungo possibile, far toccare su altri punti della bobina, dovrei far fare una curvatura eccessiva al cavo. Io avevo paura di romperlo, in poche parole, e quindi l'ho messo lì verso sinistra, come vedi nella foto, come hanno fatto tutti gli altri. Solo, te l'ho detto, lì è stato alterato il progetto originale, hanno fatto una cagata quelli dalla LEM. Quelli dall'Eco avevano una signora mezz'onda, invece purtroppo l'Eco ha chiuso e quindi addio. Hanno bussato, sono venuti a prendermi, dai, vado, poi già sentiamo. K, grazie ancora, ok, buona serata. Ciao ciao.